Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dedicato alle donne che lavorano e che vogliono liberarsi del multitasking, che è la più grande fregatura inventata contro di noi per farci sentire in colpa, farci fare decine di cose contemporaneamente e farcele fare magari male, ma anche dedicato a chi vorrebbe tornare poi il lunedì al lavoro con una maggiore leggerezza che rende la vita più accettabile, se non più piacevole. Noi ci pensiamo tutte le domeniche alle cose che possono aiutare a stare meglio sul fronte del lavoro, da mangiare meglio a rapportarsi con i colleghi o con il capo. Poi certo, a un certo punto può anche arrivare l'idea che comincia a insinuarsi giorno dopo giorno, ma se io questo lavoro proprio lo cambiassi? Allora, lo sapete, no? Che c'è uno studio del McKinsey Global Institute pubblicato di recente, secondo il quale il 49% dei lavori che vengono svolti attualmente da persone fisiche nel mondo potranno essere automatizzati quando le tecnologie e le intelligenze artificiali si saranno diffuse su scala globale. E allora noi, che siamo furbetti, anticipiamo questa tendenza, magari cominciamo a pensare a che tipo di lavoro potremmo fare, un lavoro diverso da quello che stiamo facendo, un lavoro non sostituibile magari da una intelligenza artificiale, oppure semplicemente cominciamo ad accarezzare l'ipotesi di accompagnare il lavoro che stiamo facendo e che magari ci piace anche molto, con un'altra attività, con una cosa che possa bilanciare le frustrazioni quotidiane, una cosa che ci piace e per la quale magari riusciamo a ritagliare un po' di spazio. Non un hobby, una vera passione. Allora, di questo parleremo, di questi due argomenti. Come reinventarsi una vita nuova, magari totalmente diversa dal lavoro che abbiamo fatto per 5, 10, 20 anni, oppure come affiancare al lavoro che facciamo, che ci piace, ma magari non ci appassiona più come un tempo, un'altra cosa, qualcosa che ci piace davvero, che magari non ci faccia guadagnare, ma ci faccia stare bene, che è un bel guadagno. Non so se siete d'accordo. E di lavoro, di quello che sta succedendo, di come sta cambiando, di come possiamo pensare di cambiarlo noi facendo qualche altra cosa o, come dicevo, abbinando un'altra attività a quella che già facciamo, parliamo con un grande esperto di lavoro che è il nostro agente provocatore di oggi. Benvenuto, buona domenica al professor Domenico De Masi, sociologo, professore di sociologia del lavoro alla Sapienza di Roma. Buona domenica, professore. Grazie a voi. Intanto vorrei cominciare dalla ricerca che di recente il Movimento 5 Stelle le ha commissionato. Il titolo è molto curioso, interessante anche per noi, Lavoro 2025. È il futuro del lavoro in Italia. Che cosa dobbiamo aspettarci? Ma dobbiamo aspettarci che ci sono due forze proprio scatenate. Da una parte la globalizzazione, per cui andiamo a comprare altrove quello che un tempo avremmo fatto in casa, e dall'altra le tecnologie. Le tecnologie a loro volta sono evolute moltissimo, sono cominciate come tecnologie meccaniche, l'antico telaio meccanico che prendeva il posto dei lavoratori in Inghilterra nell'Ottocento. Poi sono diventate metalmeccaniche e hanno tolto lavoro anche agli operai specializzati. Poi sono diventate digitali e hanno cominciato a togliere lavoro anche agli impiegati. Ora stanno diventando intelligenza artificiale e piattaforma e finiranno per togliere lavoro anche a una parte dei creativi. Anche agli interpreti, per dire, no? O persino a chi lavora nella finanza. Allora, si dice sempre, un po' per consolarci forse, beh, ma ogni rivoluzione ha cambiato le cose, ma poi ha creato tanti lavoro. Non è che il telaio meccanico ha immediatamente lasciato senza lavoro persone che poi non ne hanno trovato un altro. È vero, ma adesso, oggi, alla vigilia di questa ennesima rivoluzione, che previsioni si possono fare? Cioè, tutti i lavori che spariranno, come potranno essere sostituiti? Cioè, chi faceva finanza e sarà sostituito da un algoritmo, che farà? Ma intanto le macchine meccaniche, quando arrivarono, non furono tolsero lavoro, ma questi lavori poi non tornarono immediatamente. Tra la fine di alcuni lavori e l'inizio di lavori nuovi, tra la fine delle carrozze, per dirla, e l'avvento delle ferrovie, ci furono anni di disastrosi, di disoccupati, di morti, di indigenza a causa della disoccupazione tecnologica. Bisogna tenere conto poi che i primissimi meccanismi, per esempio l'automobile, risero disoccupati cavalli, già, non tanto gli uomini, per cui non ce ne accorgemmo, furono ammazzati migliaia e migliaia di cavalli perché non servivano più. Oggi invece no, oggi le macchine sostituiscono il lavoro intellettuale oltre che quello manuale. E qui ci sono due teorie. Gli economisti finora hanno sempre tenuto duro nel dire che come le macchine meccaniche finirono per creare più posti di lavoro di quanti ne distrussero, così sarà anche per le macchine digitali. Io credo che questo non sia assolutamente vero, e per fortuna man mano il numero degli economisti che sono dalla mia parte aumenta in tutto il mondo. Io credo che questo tipo di macchine distrugga molti più lavori di quanti ne produca, e d'altra parte ormai abbiamo raschiato il fondo, i lavoretti cosiddetti, la gig economy ormai ha fatto di tutto, non sanno più cosa inventarsi questi ragazzi disoccupati. No, tra l'altro anche i cosiddetti mini job, quelli che per esempio dagli anni di Reagan in poi sono stati una valvola di sfogo. Penso per esempio a lavorare da McDonald's, per dire una cosa. Certo. Beh, anche quelli spariranno, perché ho letto, professore, lei lo saprà meglio di me, che è stato realizzato un prototipo di robottino che serve l'hamburger, e per cui non ci sarà più bisogno dell'umano, quindi nemmeno quel genere di lavori rimarrà. E allora quali lavori rimarranno? Ma c'è l'antica favola cinese, il racconto cinese dell'inventore della scacchiera, degli scacchi. Presentato questo gioco all'imperatore, l'imperatore disse: cosa posso fare per compensarti? E l'inventore disse: ma siccome siamo poveri, mi dia del riso, mettiamo un chicco di riso al primo quadratino, due al secondo, quattro, poi otto, 16 e così di seguito. L'imperatore accettò, però quando andarono a fare i calcoli si resero conto che, arrivati alla prima metà della scacchiera, bastava un solo quadratino per raddoppiare il tutto. Noi siamo in quella situazione lì, cioè con l'intelligenza artificiale non faremo un passo in più, ma addirittura entreremo nella seconda parte della scacchiera, e i posti delegabili alle macchine saranno enormi. Tenga conto che io vedo tutto questo con gioia, non con dolore, perché poter ottenere più beni e più servizi con meno lavoro umano è stato da sempre il sogno dell'umanità, cominciò Aristotele col dirlo. E però si dice anche, e io personalmente condivido, che il lavoro, lo dice Papa Francesco, ma non è certamente il solo, rafforza l'identità di un uomo. Non è tutto, ma certamente gli garantisce anche una sicurezza di sé, oltre che l'orgoglio di poter contribuire alla comunità, alla famiglia. Tutto questo può essere sostituito da un'umanità che in larga parte sopravvive mantenuta da altri. Inevitabilmente ci saranno quelli che lavorano e che saranno i cittadini di fascia A, e quelli che sono mantenuti, che guadagneranno infinitamente di meno e saranno i cittadini di serie B. Guardi, il lavoro serve a tre cose: serve a guadagnarci da vivere, serve a darci della socializzazione con altri e serve ad autorealizzarci. Probabilmente noi non avremo più il lavoro retribuito, ma le altre due cose possiamo farle con attività che non chiamiamo lavoro, ma che chiamiamo socializzazione, che chiamiamo dono, che chiamiamo volontariato e così di seguito. Il problema è la cultura, cioè passare da una cultura del lavoro immediatamente retribuito a un lavoro che praticamente si svolge anche senza retribuzione. Il mio prossimo libro, che esce a marzo, è intitolato non a caso Lavorare gratis, lavorare tutti. Quando la ricchezza sarà prodotta in gran parte dalle macchine, il vero problema sarà come distribuirla questa ricchezza, perché non potrà essere soltanto dei pochi proprietari delle macchine, ma dovrà essere di tutti. Quindi, se lei dovesse dare un consiglio a chi vuole portarsi avanti, è cominciare a crearsi, diciamo, un lavoro parallelo dal quale non si ricava magari denaro, ma dal quale si ricavano grandi soddisfazioni. Può essere il volontariato, può essere una passione. Ma lei l'ha detto molto meglio di quanto avrei potuto fare io. È proprio questo, è come se noi nei biglietti da visita del futuro non scrivessimo chirurgo o avvocato, ma scrivessimo appassionato di jazz o appassionato di agricoltura. Dobbiamo passare da una società basata sul lavoro in senso tradizionale a una società basata su attività di carattere prevalentemente creativo. Mi tolga una curiosità in chiusura, ma lei sul suo biglietto da visita del futuro che cosa scriverà? Che cosa scriverà? Io lo so che cosa scriverò, ma lei? Io scriverei specialista in ozio creativo. che però è un lavoro, immagino pure ben retribuito. Non un lavoro. Perché noi al concetto di lavoro connettiamo due cose, uno che sia retribuito, ma l'altro soprattutto che sia penoso, dando per scontato che più è penoso più accumuliamo meriti per l'altra vita. Invece dobbiamo entrare nell'ordine di idee che il lavoro o è gioioso o non è. Diceva Paolo VI nella Populorum Progressio, il lavoro non è umano se non è intelligente e libero. Grazie professor De Masi, a presto. Grazie a lei. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati nella seconda parte di Nessuna è perfetta, il programma di Radio 24 che parla di donne e lavoro. E questo, come sempre, è il momento della nostra Sunday Girl. La nostra Sunday Girl è Sabrina Impacciatore, attrice ma anche imitatrice sulle scene teatrali con Venere in pelliccia, il testo celebre di von Sacher-Masoch, riscritto per il palco da David Eves e proposto in Italia da Walter Malosti. È in giro per l'Italia, Roma, Torino e soprattutto porta sul palcoscenico un carattere femminile che è molto interessante, perché questa Wanda che si presenta sul palco chiedendo con insistenza un'audizione per diventare la protagonista di Venere in pelliccia, prima si presenta come una volgare, una che non ha alcuna finezza, ma è tutto un trucco, vero? Sì, buongiorno Maria, sì, è decisamente tutto un trucco, perché il finale rivelerà poi la sua vera identità. Comunque sì, si parte da una posizione di subordinazione psicologica di questa donna, perché entra a fare un'audizione e deve essere scelta, quindi mette in gioco tutte le sue armi per essere scelta, solo che è molto grezza, volgare, ignorante, inopportuna, invadente, ce le ha tutte, veramente. Infatti il regista avrebbe la tentazione di sbatterla subito fuori, ma lei invece piano piano, molto sottilmente ma inesorabilmente, riuscirà a costruire una tela di ragno che lo intrappolerà e che gli farà capire probabilmente proprio a lui che cosa vuol dire aver cercato di sottomettere una donna. Anche dal punto di vista culturale, questo spettacolo è la storia di una vendetta femminile contro la misoginia culturale. Beh, affascinante, perché in apparenza Wanda Jordan usa tutta il ventaglio, no, dei vecchi trucchi tradizionalmente femminili, quindi seduce, ambigua, però come spieghi vince perché è intellettualmente capace di giocare questa partita. E come è intellettualmente capace? Cioè, qual è la sua qualità? Perché magari possiamo, come dire, approfittarne anche per un colloquio di lavoro, non solo per un'audizione teatrale. Guarda, infatti io ogni sera interpretando questo personaggio mi accorgo che lei dà proprio delle lezioni, questa Wanda riesce a trasmetterci delle lezioni su come dobbiamo comportarci in certi casi con gli uomini. Lei è sapiente, lei è la sapienza pura, lei innanzitutto è molto consapevole di tutto, quindi per esempio ha individuato il fatto che lui sia misogino, perché a volte la misoginia è talmente sottile che tu non sai di avere di fronte a te un interlocutore che diffida delle donne. E come se ne accorge lei? E lei lo sa da prima, ecco. Lei lo sa da prima, appunto non posso rivelare, lei... quando entra in quella stanza lei sa già tutto, siamo noi che non ce ne accorgiamo che lei sa già quindi tutto. Quindi come per un colloquio di lavoro uno si presenta sapendo già tutto dell'interlocutore che farà il colloquio, così Wanda Jordan sa tutto del regista che in fondo le deve attribuire un lavoro, no? Esattamente, ma infatti è veramente interessante. Questo testo parla di del rapporto tra regista e attrice, però davvero è anche descritto in maniera intelligentissima il rapporto tra un qualsiasi datore di lavoro, che quindi abbia una ovviamente sia in una posizione di supremazia psicologica e non solo, e una ragazza che deve essere scelta e che deve ottenere quel lavoro. E lei le prova tutte i consigli che potrei, così, non so, gli uomini comunque quasi tutti amano essere adulati, sempre. A qualsiasi età e per quanto possano sembrare severi. Brava, bravissima, anche il più severo non resiste alla lusinga dell'adulazione. E poi dopo lei le usa proprio tutte, perché lei parte dall'adulazione, quindi per farlo sentire sempre, proprio solleticando il suo ego in tutte le forme possibili, però poi, diciamoci la verità, lei offre anche della sostanza. Cioè lei quando fa l'audizione rivela un talento strepitoso nel riuscire a interpretare quello che lui cercava, e addirittura lei riesce a mettere in atto nella realtà quello che il testo propone nella finzione, cioè un rapporto sadomaso. Quindi vabbè, poi questo spettacolo, credimi, ha delle derive incredibili. Infatti ci incuriosisce molto, e non credo che sia una buona idea venire a vedere Sabrina Impacciatore sul palco. Ma dici di te, tu prima di immergerti nel personaggio di Wanda Jordan, i trucchi per essere convincente e ottenere una parte, li conoscevi già tutti? Sì. Guarda, purtroppo queste sono cose anche affidate alle mani del destino. Ormai mi sono accorta che bisogna essere molto fatalisti, e ormai io sono convinta che se una cosa deve succedere, succede comunque, anche quando tu non stai dando il meglio di te ad un'audizione o ad un colloquio, è perché è destino, e ne sono totalmente convinta. Ormai sono di un fatalismo estremo, perché osservando la mia vita e tutte le circostanze che hanno permesso che una cosa avvenisse o meno, sicuramente è dipeso tanto da me, ma poi c'è tanto di incontrollabile. Di caso, sì. Di incontrollabile. Sì, di incontrollabile. Sicuramente quello che io ho capito, che comunque fa star bene me, è che io voglio essere irreprensibile dal punto di vista di quello che offro in quel momento. Cioè non voglio avere sensi di colpa. Quindi devo dare prepararti in maniera maniacale. Maniacale, sì. Mi preparo in maniera maniacale cercando di comunque essere poi invece aperta a tutto quello che succede in quel momento, perché non bisogna neanche affermare un'idea senza far pensare all'altro che possa aggiungere. Perché si diventa attrici, Sabina? Perché è una malattia. È una malattia, eh? Sì, non è meno di questo. Io lo stavo proprio verificando in questi giorni, e anche per esempio nel mio privato mi accorgo, cioè il mio fidanzato soffre i contraccolpi di questa mia malattia, perché è una questione vitale. Non è una questione legata... Non è un lavoro, è qualcosa di, come dire, divorante. Sì, purtroppo è divorante, purtroppo e per fortuna. Mi sono accorta che per me è proprio una condizione fondamentale per stare al mondo, nel senso che è la mia droga personale. E reinventarsi? Hai mai passato un momento in cui... hai pensato, bene, sono stata attrice fino adesso reinvento la mia vita e faccio un'altra cosa. Guarda, nei momenti di crisi sì, siccome ci sono tanti momenti dolorosi nella vita dell'attrice, tanti momenti di delusioni enormi, insostenibili, momenti in cui non si lavora e quindi non si agisce la creatività, sai, un pittore, cioè un pianista magari dentro casa può suonare, certo non è felice se non può suonare per gli altri, ma un attore dentro casa non può fare niente. Quindi, no, ha bisogno del pubblico. Oh? Sì, quindi ci sono tanti momenti di crisi, però quando la malattia è così radicata, reinventarsi diventa impossibile. Io sicuramente cerco di esprimermi anche in altre forme, scrivo canzoni, mi hanno chiesto un libro, cerco di agire altre forme della creatività. Però fare l'attrice per me... È un destino. È anche un desiderio di congelare per sempre l'età in cui avevo 7 anni, 8 anni. Per me recitare è congelare quel momento, è creare una realtà dove tutto è ancora possibile e dove non mi può accadere niente di brutto e dove entro nella vita ma senza esserne davvero ferita come nella realtà e posso raccontarla agli altri cercando di farli sentire meno soli. E infatti credo che la magia del teatro sia proprio quello, che in quel momento, per le 2 ore dello spettacolo, chi è seduto e guarda te recitare, tu che trasmetti al pubblico quel che stai recitando, siete, diciamo, tessuti degli stessi fili. È una cosa magica. E proprio pensando alla magia di questa donna, della protagonista di Venere in pelliccia, allora diamo appuntamento per gli spettacoli che ci saranno dopo Roma, a Torino, al Teatro Gobetti e sì, poi a Pavia. Maria, che mi hanno detto che è già tutto esaurito il Gobetti. Ma fantastico, però potete correre mai. Sì, è vero, non si sa mai, perché non ogni tanto ci sono delle defezioni, la febbre di qualcuno, le cose. E poi Pavia però, e poi altre città. Sì, quindi... Pavia, poi altre città. Insomma, la tournée della Venere credo che sia scritta su un sito di Parma Concerti, che è la produzione. Quindi insomma... possiamo organizzare il nostro momento di coaching in diretto, no? Attraverso le indicazioni che ci dà la protagonista di Venere in pelliccia, Wanda Jordan, cioè Sabrina Impacciatore. Intanto, Maria, buona grazie. Domenica, grazie. Buona domenica a te, Maria, grazie davvero, buona domenica a tutti in ascolto. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Nessuna è perfetta. Bentornati, bentornati a Nessuna è perfetta. Allora, vi ricordate, il professor De Masi prevedeva un futuro in cui sul nostro biglietto da visita non ci sarà più avvocato, professore, ingegnere, costumista, ma ci sarà lavoro creativo, perché secondo il professor De Masi il futuro sarà sempre meno di lavoro retribuito e sempre più di lavoro che ti dà un'identità ma non corrisponde, ma all'identità non necessariamente corrisponde una retribuzione. La retribuzione arriverà così, perché ci penseranno le intelligenze artificiali a fare soldi. Vedremo col professor De Masi, ne parleremo. Io vi ho anche promesso che poi vi dirò che cosa scriverò sul mio biglietto da visita del futuro, ma intanto voglio parlare di presente, con chi la sua identità professionale se l'è già inventata e reinventata. Gli esperti di oggi. Buona domenica, avvocato Alessandro Munari. Alessandro Munari è il socio fondatore dello studio legale Munari Cavani, che è un importantissimo studio legale di Milano, per il quale già va via, diciamo, due terzi della sua giornata. Non pago ha anche fondato il Busto Arsizio Film Festival, che tornerà dal 18 al 25 marzo con temi sempre bellissimi e ospiti di grande rilievo. Sarà lui poi a dirci chi saranno gli ospiti dal 18 al 25 marzo. Non pago di questo, è anche docente universitario, musicista, e ha fondato una band che si chiama Rinvio a Giudizio. Avvocato Munari, lei già sta oltre il biglietto da visita creativo, ne servono quattro? No, oltre no, siamo tutti un po' multitasking. Io, dopo l'autorevole intervento del sociologo De Masi, l'intervento di un operatore sul campo, come dire, è necessariamente limitato a un'esperienza vissuta, cioè io ho sempre vissuto nel mondo della legge, perché questo è sono stati i miei studi, il mio lavoro, ci ho dedicato tanta energia e tanta passione, però mi sono sempre tenuto una riserva di espansione verso i mondi che mi erano altrettanto congeniali, quindi l'arte, una fattispecie, come lei ha ricordato, l'arte cinematografica, ma anche quella musicale e tante altre attività collaterali che, voglio dire, riempiono la mia vita in maniera consistente e mi fanno sentire estremamente vivo e, se posso dirlo, anche utile. Ecco, ne parleremo in dettaglio tra un pochissimo. Intanto voglio presentarvi Laura De Chiara. Perché Laura De Chiara è la nostra esperta di questa domenica? Perché dopo aver lavorato per oltre 20 anni nel marketing e nella comunicazione di grandi multinazionali, Universal Pictures, Johnson & Johnson, ha deciso di mettersi in proprio e ha cambiato totalmente settore, perché ha importato a Roma un sistema che fa la gioia di molte signore romane, cioè l'Acqua Go, il pedalare in acqua in cabine individuali. Buona domenica Laura De Chiara, com'è che si cambia totalmente settore? Buona domenica Maria, grazie per questo invito alla trasmissione. Si cambia totalmente settore cercando di rimanere molto flessibile, cercando di ascoltarsi profondamente, nel senso che io ho avuto un evento fortunato 2 anni fa, una tarda maternità che mi ha dato il lusso di fermarmi a pensare. E questo è stato sicuramente la cosa più importante, cioè la possibilità di ritornare in una fase creativa e cercando di reinventarmi e di ascoltarmi un pochino di più, nel senso che dopo 20 anni di col aziende... suo lavoro di prima, lei doveva viaggiare, stare spesso fuori casa, stare all'estero. Sì, questo ha influito sulla sua decisione? Moltissimo, nel senso che al crescere ovviamente in 20 anni le responsabilità sono state sempre crescenti con grandissima soddisfazione. Il marketing, la comunicazione e la strategia d'azienda sono e rimangono le mie grandi passioni, però sono passioni che ho cercato di riapplicare, cambiare un po' il paradigma, quindi recuperare la flessibilità nella mia vita, nella mia giornata, cioè riappropriarmi laddove possibile di un tempo, come diceva anche Munari, proprio per seguire le mille altre passioni che ci sono nella vita di una persona. Quindi è stato per me un'occasione veramente fondamentale, una fase proprio creativa importantissima che mi ha consentito di, partendo dalle competenze che avevo accumulato, quindi partendo da quello che sapevo fare, mi ha dato la possibilità di guardare dei segnali del mercato, guardare nuovi trend, nuovi consumi e scoprire che alle donne piace andare in bicicletta, in acqua. Piace pedalare, piace avere un fitness che si può fare in pochissimo tempo in maniera estremamente salutare e veloce, con grande efficacia, ma soprattutto proprio avere la possibilità di tornare a gestire la mia agenda. Certo, un minuto adesso, perché l'avvocato Alessandro Munari è anche, appunto, come si diceva, cioè, prima di tutto un grande avvocato con clienti molto impegnativi e molto esigenti. Allora, al massimo in questi casi, quando si ha anche la responsabilità di un grande studio legale con tanti dipendenti, uno immagina che nel tempo libero, non so, si fa la bicicletta o si va in palestra o si gioca a golf nei casi, diciamo, di passioni più intense, no? Ecco, ma lei dove lo trova il tempo per occuparsi, per esempio, del Busto Arsizio Film Festival, che è una cosa impegnativa, dura parecchi giorni, ha ospiti importanti? Quest'anno, se non sbaglio, ci sarà Claudio, ci sarà Verdone, giusto? Sì, l'apertura è dedicata a Claudio Verdone. Dunque, partendo dal BAF, il Busto Arsizio Film Festival è conosciuto dagli operatori più col nome di BAF, che è un po' questo acronimo simpatico che poi ha avuto fortuna, dura da 15 anni, quindi siamo riusciti a portarlo a un livello, direi, di una certa interesse da parte degli operatori, e questo ci dà grande soddisfazione. Alla domanda come faccio, dove lo trova il tempo? Rispondo sotto due profili. Il primo profilo è che io ho la fortuna / sfortuna, perché l'ho vista anche in un'altra ottica, di essere uno che dorme poco, quindi dormendo poco le mie giornate si estendono parecchio durante non so, ma la gente normale quando dorme poco guarda la TV o al massimo si aggira per casa mangiando quel che trova nel frigorifero, non è che uno inventa un festival cinematografico. E infatti qua arriviamo all'altro aspetto, cioè che le mie passioni sono talmente forti, mi piace talmente fare le cose, quelle che mi piacciono, quelle in cui credo, che come dire, non sento la fatica, e anzi, voglio dire, per me è un sollievo, è un divertimento potermi occupare, un lusso, io lo considero peraltro un lusso potermi occupare di queste cose, che certamente prendono una parte importante della mia giornata distribuita, no, lungo il periodo, quindi non certo concentrato ogni giorno su, però voglio dire, su questo, se poi pensiamo che al BAF è organizzato e vive e convive con una scuola di cinema che ha 60 allievi, quindi anche quello è un grosso impegno, perché portare avanti un impegno... Certo, la scuola di cinema è a Roma? No, è sempre a Busto Arsizio, questa piccola cittadella del cinema in cui c'è un festival che è un momento di immersione massima durante la settimana, che, come lei ha ricordato, va dal 18 al 25 marzo, ma durante tutto l'anno vive con una film commission che ha fatto anche delle cose interessanti e pregevoli, e questa scuola di cinema intitolata La memoria di Michelangelo Antonioni, che venne al nostro festival nel 2006, che forma 20 allievi per anno su un triennio, quindi 60 allievi, diciamo così, a regime, grosso modo, uno più uno meno, ragazzi che si diplomano poi entrano altri 20 e tutti trovano collocazione. Noi abbiamo un tasso di occupazione che si ora... Bene, allora siccome qui noi ci occupiamo di lavoro torneremo a parlarne proprio specificamente su questo. Senta, volevo andare da Laura De Chiara. È stato molto diciamo complicato cambiare lavoro, cioè tagliare i ponti con una multinazionale, il biglietto da visita dove c'era scritto manager responsabile del marketing, in famiglia il marito, i genitori non le hanno mai detto ma stai facendo il passo più lungo della gamba e se poi questa nuova attività non va, cioè quante notti insonni lei ha passato senza mettersi a fare poi i festival del cinema come l'avvocato Munari? Allora, sicuramente c'è una resistenza nel non c'è l'abitudine a considerarci delle figure flessibili, per cui ho incontrato dei pareri che ostacolavano il mio entusiasmo, comunque questa voglia di cambiare un po' il paradigma, non nel mio compagno assolutamente, che ha vissuto con me proprio il mio scalpitare, recuperare nelle mie giornate spazio, tempo, anche soltanto per sviluppare le mie curiosità. Non necessariamente per seguire la famiglia, non dobbiamo cadere nello stereotipo di ho avuto un figlio quindi volevo più tempo, no io volevo più tempo perché volevo anche essere, volevo seguire anche le altre mie passioni. Io faccio il business coach, faccio comunque la consulente di marketing, continuo a occuparmi, seguo le start-up da 3 anni e quindi avevo voglia di continuare a crescere con le mie competenze, a metterle a frutto. Ho trovato resistenza, ho trovato una resistenza in tutti coloro che temevano appunto soprattutto il rischio di perdere una posizione, no? Quindi non hai più un titolo. Sì. Ma io nella mia interiorità le confesso, Maria, che io non ho mai sentito la mia vita come un titolo. Senta Laura, ma i finanziamenti, perché poi non tutti hanno, come dire, risparmi tali a cui attingere. E quando si parte con un'iniziativa, cioè si diventa imprenditori, la prima cosa a cui uno pensa è ma chi ce li mette i soldi? Nel suo caso? Nel mio caso siamo 4 socie, molto amiche, quindi con una grande fiducia professionale reciproca, che abbiamo finanziato il progetto e poi sicuramente la mia esperienza in startup mi ha aiutato a trovare il canale giusto, nel mio caso fondi di garanzia, quindi comunque appoggiata da leggi che esistono, opportunità che ci sono sul mercato. E quindi l'esperienza conta. Sì. L'esperienza, perché certo. Io credo che comunque per cogliere le opportunità bisogna aver costruito competenze in precedenza, certo. Cioè comunque. Senta, avvocato Munari, sul suo biglietto da visita, secondo appunto De Masi, in futuro non scriveremo più il lavoro che ci consente di avere una retribuzione più o meno alta, perché tutti o in buona parte saremo mantenuti. Questa è una visione, diciamo, che non riguarda probabilmente la nostra generazione, ma il futuro viene visto così. Ecco, sul suo biglietto da visita lei cosa scriverebbe? Fantasista eclettico. Anche perché lei è uno straordinario pianista, io lo so perché l'ho sentita suonare, ma ha anche una band, Rinvio Giudizio, tra avvocati e oggi invece ha molti altri talenti, non soltanto legali, che suonano. Sì, il divertente di questa band è che è formata da persone appunto non strettamente addette ai lavori e quindi si va dal farmacista al magazziniere, dalla commessa, quindi è un gruppo di persone che però ha raggiunto un livello accettabile, diciamo, almeno secondo il pubblico, e siamo sempre tra i 10 e i 14 elementi sul palco, facciamo concerti però per beneficenza, per amicizia, nulla di professionale, quindi sul biglietto da visita non metterei né quello né probabilmente, cioè come attualmente il mio biglietto da visita rimane, cioè la mia attività, il mio core resta naturalmente quello dell'avvocatura con tutti i suoi annessi connessi, l'università e quello che ne consegue. Queste sono attività che io considero fondamentali per me, però comunicarle all'esterno, nel senso il mio ruolo nei confronti dell'esterno mi è abbastanza indifferente. Ma lei è d'accordo col professor De Masi quando dice che in futuro, non oggi, diciamo tra 20 o 30 anni, quando le intelligenze artificiali avranno largamente occupato gran parte del mondo del lavoro così come lo conosciamo, noi saremo dei lavoratori che si occuperanno delle proprie passioni, non avremo il lavoro che facciamo per avere lo stipendio. Pensa davvero che sia così il futuro? Allora, in parte è sicuramente vero. Io ho una stima assoluta del professor De Masi, di cui ho letto praticamente tutto, lo leggo costantemente. Quindi sicuramente la sua visione è una visione, come dire, che ha dei fondamenti solidi sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista fattuale. Devo dire che ci sono alcune attività lavorative o professionali che non so quanto potranno essere sostituite dalle macchine. Non lo so, avvocato, la fermo perché non sappiamo che tipo di diciamo lavoro sofisticato saranno capaci di fare le intelligenze artificiali del futuro. Grazie all'avvocato Alessandro Munari, grazie a Laura De Chiara, manager e oggi titolare a Roma di Acquago. Noi ci fermiamo, tra pochissimo torniamo. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci, è il momento, lo sapete, della lettera della nostra ascoltatrice, alla quale darà consigli tutti per lei, ma anche tutti per noi, la nostra coach della settimana. Ci scrive Laura. Buongiorno Maria, lavoro da diversi anni nella segreteria di direzione di un'azienda farmaceutica. Forse sono troppi, tanto che da alcuni mesi sto seriamente pensando di licenziarmi e mettermi in proprio. Insomma, avviare una mia attività. Vorrei coronare il sogno che ho sin da bambina, disegnare e produrre piccoli gioielli. Mio marito e i miei genitori sono molto preoccupati. Oltre alla perdita di un posto che è fisso e dunque rarissimo di questi tempi, mi dicono che avrei potuto pensarci prima. Ho 45 anni. Io invece sono convinta che il bagaglio di esperienze precedenti non potrà che essermi d'aiuto. Sono troppo ottimista? Laura. Ed ecco la coach, bentornata Maria Serena Ciambellotti, la nostra coach di questa domenica con le sue pillole. Allora, prima pillola, da dove cominciare? È un'ottima domanda che si pone Laura e la riflessione sulle sue precedenti esperienze direi che è proprio il punto di partenza per un esercizio che è molto utilizzato nelle sessioni di coaching che si chiama linea del tempo. Quindi si tratta proprio di prendere un bel foglio di carta, metterlo orizzontalmente davanti a sé, tracciare una riga e riflettere a quelle che sono state le 3 esperienze professionali significative per la persona. Possono essere anche nella stessa azienda in ruoli diversi, no? Quindi tracciare quindi 3 date più o meno su questa linea e poi rispondere alla seguente domanda. Che cosa ho imparato da ciascuna di queste 3 esperienze? E quando dico significative intendo sia nel senso positivo sia in un'ottica negativa, perché tante volte impariamo, certo, forse anche di più anche dagli errori. Quindi prima cosa, prima pillola, prendete un foglio di carta, mettete lì le 3 esperienze dalle quali pensate di aver imparato di più nella vostra vita professionale, anche esperienze negative. Seconda pillola. Seconda pillola, traendo quindi spunto dalla lettera, dice preoccupazione e resistenza da parte del marito. Comprensibile, ha un lavoro a tempo indeterminato, cosa che oggi è insomma prezioso. Lasciarlo per buttarsi in un'avventura, in un contesto che non conosce, la creazione di gioielli con tanti competitor più agguerriti, comprendiamo le, diciamo, la riluttanza dei familiari. Sì, e dunque e quindi dunque intanto inquadrare le loro l'espressione delle loro resistenze come la manifestazione di una paura, di una serie di paure che loro hanno per lei, che loro provano quindi per, pensando a lei, al suo futuro che dal loro punto di vista è incerto. Trattandosi di un'emozione, quella della paura, che nasce da un bisogno, come tutte le emozioni alle quali non viene dato ascolto, in questo caso la paura, il bisogno al quale non viene dato ascolto, mm-hmm. è la sicurezza, ma fare di tutto per rassicurarli. E quindi rassicurarli come? Rassicurarli sul fatto che Maria, che Laura ha ben chiaro il suo obiettivo, ben già analizzata l'ambito, già analizzato l'ambito nel quale muoversi nella produzione, nel disegno e nella produzione di questi piccoli gioielli, quindi fornire loro dati, informazioni concrete che possano quindi, cioè, un business plan, deve farsi, sì, un business plan, perché assolutamente, un business plan con tutti diciamo gli elementi anche di profitti, perdite per i primi anni, cioè deve avere le idee economicamente chiare e risposte che solo in questo caso possono davvero rassicurare i familiari, perché certo, se no, se uno va all'avventura è giustamente le preoccupazioni. Azioni. Terza pillola, visto che parla di una hobby, di una Di un sogno, no? È un sogno, dice Laura, che coltiva da quando era bambina, disegnare e produrre piccoli gioielli. Ecco, quindi va dato credito a Laura che è proprio in contatto con questa sua passione, no? Quindi è dove mettiamo passione, è dove riusciamo ad attingere il carburante per le nostre azioni. Quindi, come dico, ho già detto altre volte, mettere il coraggio, il cuore nelle proprie azioni, coraggio di agire, coraggio di andare verso il suo obiettivo, che è quello che è il sogno che coltiva sin da ragazzina, e con la passione, che è quindi l'energia che la guiderà anche ad affrontare le inevitabili difficoltà che un qualunque cambiamento ci presenta. Quindi linea del tempo, business plan in modo da fornire dati a chi è preoccupato per lei e per il suo futuro, e tanta passione per andare quindi con slancio verso il suo obiettivo. Dopodiché, se il secondo punto, cioè il business plan, rivela delle falle, non insistere caparbiamente solo perché quello è il sogno della vita, bisogna avere anche i piedi per terra, anche se devo dire chi ha visto il film La La Land trova che mollare i sogni, come stava per fare la protagonista, possa essere poi invece un vero peccato, perché alla fine il sogno diventa realtà, ma quello è film, quello è cinema, appunto, quello è Los Angeles. Grazie Maria Serena Ciambellotti, la nostra coach di questa settimana, e a tutti voi buona domenica.